Focus Economia. Le 17, 10 minuti e 35 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. I temi che affronteremo oggi, parleremo di occupazione giovanile. Come già vi abbiamo anche raccontato nei nostri giornali radio, oggi si è svolta la giornata di Orienta Giovani a Napoli. Naturalmente il tema è al centro dell'attenzione, visti anche gli ultimi dati diffusi nelle ultime settimane dall'Istat e dall'OCSE, che segnalano come questo sia un vero e grande problema italiano. E parleremo naturalmente anche di valorizzazione dei talenti, perché anche questo naturalmente è un tema centrale. Nella giornata di Orienta Giovani poi è intervenuta la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e ha parlato anche dei temi caldi, ossia la politica naturalmente e la vicenda Fiat. Toccheremo un altro tema caldo sul fronte finanziario, che è quello di Unicredit. Oggi il consiglio di amministrazione dovrebbe sciogliere i nodi per quanto riguarda le nomine, insomma capire tra i direttori generali quello che avrà un ruolo preminente nella nuova gestione. Il consiglio di amministrazione è ancora in corso, vedremo che cosa succederà, approfondiremo e vedremo naturalmente se saremo in grado di darvi notizie anche ufficiali nel corso della trasmissione. E poi ci occuperemo di immigrati, perché avete sentito che è uscito il rapporto Caritas Migrantes, del quale i nostri notiziari vi hanno dato conto. Eppure c'è anche un aspetto economico in tutto questo, della presenza degli immigrati in Italia, della presenza degli immigrati regolari in Italia, ed è quello, tanto per dirne una, che i conti dell'INPS non sarebbero in ordine. Probabilmente questo è quello che sostiene il rapporto Caritas Migrantes, poi ne parleremo con un esperto. Non sarebbero in ordine se gli immigrati non ci fossero. Parleremo di questo e poi toccheremo anche l'argomento di musica. Parleremo di musica perché oggi è stato diffuso il rapporto economico sulla musica in Italia. Il numero degli SMS è il solito 349-238-6666. Le notizie in breve di questa giornata. Naturalmente non vi abbiamo dato ancora conto, poi lo faremo più ampiamente avanti, e come al solito dei mercati. La giornata è piuttosto debole oggi: il FTSE MIB cede lo 0,44%, il FTSE All Share lo 0,42%, vanno un po' peggio le cose nel resto d'Europa, mentre l'America sembra al momento tenere, anche se lievemente negativa. Il Dow Jones cede lo 0,13%. Per quanto riguarda i cambi, l'euro cede il dollaro recupera qualcosina, se così vogliamo dire. L'euro quota 1,3847 contro la valuta americana. Per quanto riguarda il petrolio, che vediamo come sempre in apertura, aperto a $82,3 al barile, in calo dello 0,3%. Interessante il dato che arriva dall'India, perché il ministro delle finanze Pranab Mukherjee dice che la crescita indiana si collocherà tra l'8,25% e l'8,75% nell'anno fiscale aprile 2010-marzo 2011, e dice che la ripresa si sta consolidando in tutti i settori dell'industria, servizi e agricoltura grazie agli stimoli fiscali. Andiamo negli Stati Uniti, dove i prezzi delle case rilevati da Standard & Poor's Case Shiller sono saliti ad agosto dell'1,7% su base annua, mentre sono calati dello 0,3% rispetto al mese precedente. È interessante invece il dato sulla fiducia dei consumatori americani ad ottobre, salita a 50,2 punti da 48,5 di settembre, un rialzo superiore alle attese degli analisti. Sempre dall'America, i dati di Ford, un utile record nel terzo trimestre dell'anno. La casa automobilistica americana ha archiviato i tre mesi scorsi con un profitto netto di 1,69 miliardi di dollari, il più alto nei suoi 107 anni di storia. E poi fa sapere che investirà nei prossimi tre anni negli Stati Uniti 850 milioni di dollari e creerà 1200 nuovi posti di lavoro nel Michigan, dove ha la sua sede storica. Ancora dall'America, Warren Buffett avrebbe scelto un gestore di hedge fund poco conosciuto al grande pubblico come candidato principale per sostituirlo a capo della divisione investimenti di Berkshire Hathaway quando il leggendario finanziere deciderà di lasciare l'incarico. E cosa è successo? Che Berkshire ha nominato Todd Combs, un manager di un piccolo hedge fund del Connecticut, che fino adesso aveva gestito 400 milioni di dollari investiti per lo più in titoli di società di servizi finanziari. Insomma, questo Combs sarà a capo di una porzione del portafoglio investimenti della conglomerata che complessivamente vale 100 miliardi di dollari, quindi da 400 milioni di dollari di gestione a 100 miliardi, una nomina che gli analisti non a caso giudicano sorprendente. Ancora dall'America, sono uscite delle indiscrezioni per il momento smentite da Sony, o quantomeno per le quali Sony ha detto non commentiamo indiscrezioni e speculazioni, per cui Apple addirittura sarebbe interessata ad acquistare Sony. Sono appunto speculazioni, voci che si rincorrono sui media, sono circolate anche voci di altri interessi per Adobe, per esempio. Fatto sta che Apple ha parecchi soldi in cassa e sarebbe intenzionata a spenderli. Sul fronte dell'Europa sono ottimi i dati della Gran Bretagna, perché il prodotto interno lordo inglese è cresciuto dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti, questo nel terzo trimestre, e del 2,8% rispetto ad un anno prima, mentre gli analisti si attendevano una crescita su base trimestrale di circa la metà, dello 0,4% e del 2,4% su base annua. In conseguenza di questo, Standard & Poor's ha rivisto a stabili da negative le prospettive sul rating di AAA, appunto, dell'Inghilterra. Ci sono state una serie di aste di titoli di Stato. Innanzitutto la Spagna, che ha venduto 3,2 miliardi di euro di titoli di Stato, meno dell'obiettivo massimo di collocamento che era di 4 miliardi. Sui titoli trimestrali venduti per 1,69 miliardi, il rendimento medio è risultato pari allo 0,951% contro lo 0,685% dello scorso 28 settembre. Per quanto riguarda invece l'Italia, anche qua c'è stata un'asta di bot semestrali e CTZ offerti dal Tesoro. Per quanto riguarda i buoni a 6 mesi, sono stati offerti per 9 miliardi e richiesti per 14,85, il rendimento è dell'1,207%, anche qua in lieve rialzo, così come sono in rialzo i rendimenti delle obbligazioni greche. Si parla di insomma, ieri esplicitamente il governo ha parlato della possibilità di elezioni anticipate. Tra l'altro, proprio dalla Grecia arriva che il prodotto interno lordo dovrebbe segnare un calo del 4% per poi migliorare nel 2011. Queste sono le stime della Banca Centrale. Anche su questi temi è intervenuto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha detto: la scorsa primavera abbiamo dovuto sventare la crisi dell'euro, ma guai se non avessimo avuto la moneta unica. Nella tempesta globale del 2008-2009, quando l'Europa ha attraversato un momento difficile, l'Unione ha tenuto, ha detto il Presidente Napolitano, che in questi giorni è in visita in Cina. Una notizia poi diffusa dall'agenzia di stampa Radio Core Il Sole 24 Ore. Il Tesoro lavora ad un decreto legge da 7 miliardi da varare verso fine anno con il cosiddetto mille proroghe. Ma considerato il clima politico non è escluso, scrive l'agenzia di stampa Radio Core, che il pacchetto di nuove misure possa essere anticipato o realizzato in due tempi. Che cosa succede? Si conferma che parte della copertura potrà venire dall'asta delle frequenze digitali, che potrebbero fruttare fino a 3 miliardi. Per la parte restante, scrive sempre Radio Core, si guarda ancora al capitolo delle nuove entrate, più che a tagli di spesa definiti dopo la manovra estiva e la legge di stabilità politicamente improponibili. Per il 2010 dovranno essere finanziate spese inderogabili, peraltro, per 5 miliardi. Nel provvedimento dovranno trovare spazio gli annunciati interventi per sostenere la crescita, tra cui l'aumento degli sgravi a sostegno del salario di produttività. Sicuramente questo è un tema sul quale torneremo, perché vogliamo anche cercare di capire, insomma, quando si parla di nuove entrate, esattamente di che cosa si parla. Sui temi della politica interviene la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Dice: approfitto per richiamare di nuovo il paese e la politica ad occuparsi dei problemi veri. E ancora, il paese non può permettersi una crisi. Sentiamola al microfono della collega di Radio Core Il Sole 24 Ore, Teresa Trillò, appunto a margine di Orienta Giovani. Approfitto per richiamare di nuovo il paese e la politica a occuparsi dei problemi veri, dei problemi che poniamo noi, che pone Marchionne, che pongono gli imprenditori, che pongono anche i sindacati, cioè il problema della crescita, della disoccupazione. Questi sono problemi veri e seri, quindi io continuo a pensare che il paese non possa permettersi una crisi, non possa permettersi di andare a elezioni anticipate, non possa permettersi una campagna elettorale disastrosa in un momento come questo. Quindi richiamo ancora una volta tutti a un senso, come dire, di attenzione per il paese, di bene per il paese. Tra l'altro, a proposito di attenzione del paese, forse lo avrete letto sui quotidiani di oggi, ve la segnaliamo così com'è, che la Camera si prepara ad una pausa di almeno una settimana. C'è chi parla di 20 giorni, c'è chi parla di 10 giorni, mentre lavorerà solo la Commissione Bilancio sulla cosiddetta legge di stabilità. Giusto per darvi un'idea, nel corso della settimana l'Assemblea di Montecitorio esaminerà il disegno di legge di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia. Alla ripresa ci saranno varie cose, tra cui norme per gli agrumeti caratteristici. Insomma, questo al momento è il quadro dei lavori parlamentari. Certo, i motivi sono molti, sono politici sicuramente, dipendono naturalmente dal fatto che più forte l'attività governativa, in genere l'attività legislativa governativa rispetto a quella delle Camere, però insomma i dati sono questi. Poi, sempre al microfono di Teresa Trillò, Emma Marcegaglia sulla seconda riunione del tavolo tra associazioni, imprese, banche e sindacati. Una nuova riunione è prevista per domani. L'idea è di arrivare a, come dire, a decidere posizioni comuni su 3 o 4 temi. Noi speriamo di farlo su ricerca e innovazione, sud e probabilmente ammortizzatori sociali. Quindi domani dovrebbe essere già una riunione operativa dove arriviamo a conclusioni positive. E ancora sul tema Fiat, che ha tanto scaldato gli animi, soprattutto della politica, la presidente di Confindustria lancia un appello, chiede che non sia motivo di divisione. Fiat, la famiglia, John Elkann, ma lo stesso Marchionne, non hanno affatto detto che, intendono lasciare l'Italia. Se un imprenditore, come è successo da parte di alcune multinazionali, decide di lasciare, chiude gli stabilimenti, non va in televisione, no? Li chiude e basta. A me è sembrato che l'appello di Marchionne sia un appello guardare i problemi dell'Italia, i problemi di competitività e di produttività di cui noi stessi parliamo da molto tempo, quindi mi è sembrato più un appello a cercare di risolvere i problemi italiani, che sono effettivi, perché il problema della perdita di 30 punti percentuali di produttività rispetto alla Germania è un tema vero. Il fatto che in Italia le aziende in questi ultimi anni guadagnano sempre meno a causa del fisco, a causa del mercato, a causa delle relazioni sindacali, a causa delle infrastrutture, di tante cose, è un dato vero che, ripeto, non riguarda solo la Fiat ma riguarda tutte le imprese italiane. Detto questo non deve diventare motivo di scontro, di divisione politica, ma invece dovrebbe diventare motivo di, come stiamo cercando di chiedere da tempo, di riunire le forze e cercare di affrontare questi problemi della produttività, dalla ricerca e innovazione alle infrastrutture, alle relazioni sindacali sulle quali stiamo cercando di lavorare. Questa dunque Emma Marcegaglia, che è intervenuta alla 17ª giornata nazionale Orienta Giovani, quest'anno dedicata alla musica della tecnologia, organizzata proprio da Confindustria. Tra i tanti temi naturalmente c'è quello sul quale l'associazione imprenditoriale batte da tempo, ossia la riscoperta degli istituti tecnici. I giovani che devono decidere quale indirizzo intraprendere devono sapere che scegliere un percorso di studi tecnico e scientifico significa scegliere la scuola della competitività, dice Marcegaglia. Sentiamola sempre al microfono di Teresa Trillò sull'iniziativa di oggi. Siamo alla 17ª edizione, ci sono 90 associazioni di Confindustria che oggi diciamo contemporaneamente incontrano giovani delle medie e delle superiori, riuniremo circa 50.000 studenti, quindi è una bellissima iniziativa dove l'impresa e gli imprenditori parlano con gli studenti. Il tema è quello della tecnica e della tecnologia, che sono alla base del successo dell'industria italiana, ma possono essere anche un'occasione di futuro lavorativo e anche di grande passione per i giovani. Oggi leghiamo il tema della tecnologia a quello della musica, che è una grande passione per i giovani, non solo per i giovani, e credo che sia importante e anche simbolico tenere questa manifestazione proprio a Napoli, a sottolineare che accanto a Terzigno e ai disastri di cui stiamo parlando c'è però anche una Napoli che investe sulla tecnologia. Napoli è anche un polo tecnologico di eccellenza industriale importante, e quindi noi siamo qui anche a sottolineare che c'è un'altra Napoli di successo che va valorizzata, va supportata, e la tecnologia e la tecnica sono proprio alla base del successo dell'industria napoletana e anche italiana. Vedo che già arriva qualche messaggio su questo tema, così come parecchi al solo annuncio che toccheremo il tema immigrati come risorsa economica ne sono iniziati ad arrivare su quest'altro tema, sul tema degli immigrati. Ci arriveremo più avanti, dopo le 18, e ne parleremo con un esperto. Nel frattempo io saluto il professor Fabrizio D'Ascenzo, direttore del centro di ricerca della Sapienza, impresa Sapiens. Buonasera D'Ascenzo. Buonasera a lei. Allora, autore insieme al Ministero della Gioventù di un'interessante iniziativa proprio sul tema dell'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, del quale parleremo tra un attimo. Io però, prima ancora di parlare di questo, lo faremo sicuramente dopo la pausa, le pongo subito una prima domanda, che è una questione, se vogliamo, più generale, nel senso che la vostra iniziativa, ripeto, poi ne parleremo, è un'iniziativa che tende ad avvicinare i giovani che escono dall'università, le eccellenze che escono dall'università, alle imprese. Però c'è sicuramente un problema più generale, insomma, se la disoccupazione giovanile è al 26% in questo paese, i dati sono in realtà ancora di agosto e sono in aumento sull'agosto 2009 dello 0,6%. Se succede che, come ci scrive un ascoltatore, molti stanno aprendo migliaia di partite IVA da liberi professionisti pur essendo a tutti gli effetti dipendenti, insomma, come dire, qualche problemino di assetto del mercato del lavoro su questo fronte, sul fronte dei giovani, evidentemente c'è, D'Ascenzo. Sì, indubbiamente le difficoltà ci sono. Le iniziative che stiamo portando avanti, di cui, come diceva giustamente, parleremo più avanti, sono un tentativo per risolvere il problema dal punto di vista universitario. Sentivo prima con interesse le parole del presidente Marcegaglia e l'importanza che viene data anche all'orientamento che parte già dalle scuole. Diremo successivamente che questa iniziativa che noi stiamo portando avanti potrebbe anche essere inquadrata nell'ambito dell'istruzione scolastica superiore. Sì, appunto, questo per quanto riguarda la vostra iniziativa. Senta D'Ascenzo, io la vorrei stimolare su un punto. Allora, mi è capitato, devo dire quasi per puro caso, questa mattina di parlare con un ragazzo di 27 anni che ha deciso a un certo punto di trasferirsi dall'Italia e di trasferirsi in Australia. Qua lavorava 24 ore al giorno, guadagnava delle cifre tutto sommato molto risicate, insomma, per il numero di ore lavorate, si è spostato in Australia, ha trovato un posto di lavoro ed è un non laureato, ha trovato un posto di lavoro, nel giro di 3 mesi è arrivato a capo di un team di 20 persone e adesso guadagna la cifra di $1,900 australiani a settimana, che sono circa 1.500 euro, per darvi un'idea, insomma, quindi è una discreta cifra, insomma, siamo sui 6.000 euro al mese, insomma, per rendere... C'è anche un problema evidentemente di valorizzazione dei talenti, insomma, non... Sì, guadagna molto più di me anzitutto, sicuramente al di là delle battute, coraggio ammirevole ma molto ben retribuito. I talenti vanno valorizzati, dobbiamo assolutamente investire moltissimo su questo, tutte le iniziative che vengono portate avanti per cercare di far emergere i nostri talenti sono assolutamente essenziali, sia nell'ambito del panorama scolastico, sia nell'ambito del panorama universitario, che come potrai immaginare naturalmente conosco meglio. Sicuramente quello che noi dobbiamo evitare, ma è un tema già dibattuto da tempo, è la cosiddetta fuga dei cervelli. Le iniziative che sono state fatte fino adesso sono sicuramente importanti, ma bisogna fare senz'altro qualcosa in più per evitare che i nostri migliori se ne vadano fuori, questo è fuori di dubbio. Bene, allora noi ci prendiamo un attimo una pausa, poi torneremo appunto su questa iniziativa, si chiama Campus Mentis, sono 1600 ragazzi, 200 laureati per ogni settimana, suddivisi in due gruppi, vengono, insomma, incontrano le aziende e in questo modo a quanto pare sono riusciti a trovare lavoro. Anche questo serve, ne parliamo tra un attimo. Minuti. Allora, si diceva di questa iniziativa che ci apprestiamo ad affrontare, questo progetto Global Village Campus, messo in campo nel 2009 in via sperimentale, dal quale questo Campus Mentis è stato ispirato. Il 77% dei ragazzi nel 2009 hanno partecipato al Global Village Campus, nel giro di un anno ha trovato lavoro. Ci sembra interessante perché poi è un'applicazione concreta del tentativo di incontro tra imprese e appunto laureati. Ci spiega molto brevemente, D'Ascenzo, per gentilezza, in cosa consiste? Pronto? Sì. Pronto, ci sente? Sì, se ci spiega molto brevemente in cosa consiste il progetto, cioè che cosa fate fare a questi ragazzi. L'avevo ascoltata. Allora, noi abbiamo creato questo campus residenziale in cui facciamo venire i ragazzi che gratuitamente partecipano all'iniziativa grazie al finanziamento che dà il Ministro della Gioventù, e le aziende, nella persona dei responsabili risorse umane e degli amministratori delegati, e facciamo loro delle attività che noi abbiamo definito di infoformazione, ossia facciamo sia fare dei seminari relativi a come si affronta un colloquio di lavoro, come ci si presenta ad un incontro importante, e sia dall'altra parte a delle interviste che noi facciamo fare da parte di questi responsabili delle aziende direttamente ai nostri giovani. Il progetto si muove quest'anno su numeri importanti perché ci muoviamo su 1.500 ragazzi che verranno selezionati da ieri che è partito il progetto sino alla metà di dicembre. Abbiamo 3 sedi di svolgimento. Sì, io la interrompo, D'Ascenzo, perché su questo e anche sulla replicabilità del progetto, e io tra l'altro abbiamo intervistato appunto il ministro della gioventù, Giorgia Meloni, che ci ha dato qualche dettaglio in più su quello che succederà quest'anno. Sentiamo. No, abbiamo un problema, a quanto pare, con il file audio di Giorgia Meloni, va bene, allora facciamo così, intanto io le giro questa domanda che ci arriva da un'ascoltatrice che mi sembra abbastanza interessante, insomma, ci dice: Agnese, mio figlio laurea in ingegneria a Padova, dottorato in fisica in Scozia, è tornato in Italia e dice per le aziende è troppo qualificato. Insomma, ci sono problemi di incrocio tra, come dire, tra domanda e offerta addirittura di questo tipo, D'Ascenzo, sul mercato. Ma tanto per cominciare, per fare una battuta, suggerirei di farlo partecipare all'edizione che si svolgerà ad Abano Terme ai primi di dicembre, sta proprio vicino a Padova, per cui si può iscrivere sul sito campusmentis.it. Va bene, sì, al di là di questo, diciamo, andiamo sul ragionamento generale. perdoni la battuta, il discorso è questo, la troppa qualificazione, ma io francamente non sono particolarmente d'accordo su questa impostazione della troppa qualificazione, magari sono alcune aziende che possono ritenerlo così troppo qualificato, ma sono certo che ce ne sono altre che invece apprezzano e tanto tutto il percorso che ha fatto e la specializzazione che ha fatto anche all'estero. Pensi, nel nostro mondo universitario è fondamentale fare un'esperienza all'estero per poi poter accedere alla carriera di insegnamento. Sì, poi bisogna vedere appunto se il lavoro lo si riesce a trovare, tra l'altro con una qualifica che sembra abbastanza interessante, insomma, vista la carenza di laureati scientifici di questo paese. Io la ringrazio intanto, grazie a Fabrizio D'Ascenzo, direttore del Centro di Ricerca della Sapienza Impresa Sapiens, e buonasera. Grazie, buonasera a lei. E siamo in grado di farvi ascoltare appunto il ministro della gioventù, Giorgia Meloni. Si tratta di un modello che noi abbiamo già replicato, cioè che stiamo già replicando, nel senso che quando lo scorso anno abbiamo lavorato per questa iniziativa, lo abbiamo fatto come iniziativa, diciamo, pilota, come progetto pilota, perché prima di investire delle somme ingenti o comunque anche solo delle energie complessive su un'iniziativa di questo tipo per renderla più o meno strutturale, bisognava verificare se davvero ce ne fosse bisogno, e in qualche maniera questi dati dicono di sì, cioè dicono che funziona il principio di organizzare questi campus per fare contemporaneamente tre cose: per dare attenzione a questi ragazzi che se lo meritano, per raccontare al nostro mondo imprenditoriale che c'è un materiale umano straordinario sul quale lavorare, e per fare formazione sull'ingresso nel mondo del lavoro, perché spesso questo pezzo di formazione manca nel nostro sistema tradizionale di formazione. Allora noi, dati i risultati che il progetto lo scorso anno ha portato avanti, ha garantito, noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando per moltiplicare questa iniziativa, per cui noi già passiamo in questo anno dai 600 ragazzi dello scorso anno del progetto sperimentale a quasi 2000 e vengono coinvolti in questo anno. Lo scorso anno c'era un unico campus qui in provincia di Roma e quest'anno sono tre, ce ne viene confermato quello a provincia di Roma, ne viene fatto uno a Catania e uno in Veneto, e noi puntiamo con un progetto triennale, perché lo abbiamo trasformato in un progetto triennale, a coinvolgere in questo triennio tra i 10 e i 20.000 ragazzi, quindi non si tratta più di un'iniziativa sperimentale, si tratta di un'iniziativa che noi vorremmo tentare di mandare al regime. Così dunque Giorgia Meloni, ministro della gioventù, a chi ci chiede: ma se serve una persona al lavoro, serve proprio tutta questa forma? Bisogna proprio saper fare un colloquio importante? Purtroppo il mercato del lavoro è un mercato, e quindi bisogna anche evidentemente sapersi vendere e non solamente avere le competenze. Un'ultima ora battuta dall'agenzia di stampa Radio Cori Il Sole 24 Ore è Roberto Nicastro. Com'era nelle attese il nuovo direttore generale di Unicredit? Paolo Fiorentino è il Chief Operating Officer, mentre Sergio Ermotti è, dato dalle ultime indiscrezioni, in prossima uscita dal gruppo. Ne parleremo tra un attimo, sentiamo la viabilità e poi subito dopo i mercati. Naturalmente sul tema della simmetria tra domanda e offerta di lavoro c'è chi, non a caso come Ferdinando da Bologna, ci cita gli ultimi tre premi Nobel. È il momento dei mercati. Paolo Paronetto, Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Nella doppia veste della persona che si è occupata di mercati nella giornata di oggi per l'agenzia, ma anche come uno di quelli che più da vicino ha seguito tutta la vicenda Unicredit nelle ultime settimane. Paolo, inizierei proprio da qua, perché le ultime, e sono sempre indiscrezioni, danno un Ermotti in uscita e la conferma di Nicastro direttore generale. Un consigliere all'uscita ha detto che c'è stata unanimità, che il consiglio si è svolto in un clima sereno. C'è da fidarsi? Ma quanto ci sia da fidarsi, ovviamente lo si vedrà soprattutto nelle prossime settimane. Comunque, come già dicevi tu, le prime indiscrezioni al termine del CDA, che è terminato circa 20 minuti fa, danno appunto la nomina di Roberto Nicastro a direttore generale, Paolo Fiorentino a direttore operativo, cioè Chief Operating Officer, mentre non risulterebbero nomine a carico di Sergio Ermotti, che dalle indiscrezioni è dato appunto in uscita. È un esito in parte atteso, infatti già da alcuni giorni e soprattutto già oggi le indiscrezioni di stampa davano i vertici di Unicredit orientati a dare a Nicastro un ruolo, come dire, maggiore, con più peso rispetto a Ermotti. E Ermotti avrebbe voluto di più, in sostanza. Avrebbe avuto un ruolo quantomeno paritario a quello di Nicastro, visto che loro erano comunque i due tra i vice CEO, tra i vice AD di Profumo, quelli che si occupavano delle principali linee di business, il retail e il corporate della banca. Secondo le indiscrezioni che già mettevano in conto un possibile addio di Ermotti, si fa il nome al suo posto come responsabile del corporate e dell'investment banking di Unicredit di Theo Weimer, che è l'attuale country chairman di Unicredit in Germania. Ma ovviamente è ancora molto prematuro parlare di successioni di un manager che al momento non è ancora in banca, visto che al momento, lo ricordiamo, non c'è nessun comunicato ufficiale di Unicredit. Quindi si valuta un ingresso tedesco, questa è la sostanza. Sì, una promozione tedesca. Una promozione tedesca. Va bene, Paolo, veniamo più strettamente alla giornata di mercato, una giornata che ha visto gli indici anche oggi piuttosto negativi, il FTSE MIB in calo dello 0,33%, il FTSE All Share altrettanto. Non c'è stato forse un tema dominante nella giornata di oggi, ossia se ieri abbiamo visto le banche, abbiamo visto vendite sulle banche soprattutto per l'aumento di capitale del Banco Popolare e le ipotesi circolate di un aumento di capitale di MPS poi smentite, in realtà oggi non c'è stato un tema dominante, no? Sì, esattamente, oggi infatti spunti di rilievo capaci di orientare l'intero listino non ce ne sono stati, infatti tutta Europa ha chiuso in lieve calo ma senza particolari temi. Ci sono stati spunti e notizie particolari su alcuni singoli titoli che sono infatti tra quelli che si sono mossi più degli altri. E veniamo proprio ai singoli titoli, quelli in negativo, Azimut un calo del 4,65%, qua c'è una trimestrale che non è piaciuta evidentemente. Esattamente, no? Comunicata ieri con un utile netto consolidato in calo a 20 milioni, inferiore alle attese degli analisti. Mentre invece ci incuriosisce questa Luxottica che scende dell'1,92%, nonostante la trimestrale sia stata buona, insomma l'amministratore delegato Guerra, ve ne abbiamo riferito ieri tra l'altro durante Focus Economia, abbia come dire, prospettato cose positive per il fine anno dell'azienda e tra l'altro abbia ricevuto una promozione da Nomura Luxottica. Come mai questo calo dell'1,92? Esattamente, i giudizi degli analisti sono tutti positivi sui conti di Luxottica, che sono stati superiori alle attese, e qui si parla soprattutto, l'effetto principale è quello del classico sell on news, cioè vendi quando ci sono le notizie, visto che nei giorni scorsi, proprio in attesa di questi risultati trimestrali, il titolo dal 15 ottobre aveva guadagnato oltre il 5,5%, quindi in occasione dei conti poi si passa a realizzare parte dei recenti guadagni. Inoltre diciamo che è stata valutata in modo un po' ambivalente l'annuncio dell'amministratore delegato Guerra, che vede la società pronta ad acquisizioni. Diciamo che in un clima di mercato attuale alcuni ancora vedono questo più come un rischio che come un'opportunità, e quindi la reazione emozionale è stata, diciamo, ambivalente a questa ipotesi. Allora, Geox giù del 3,12%, immagino ci sia qualche presa di beneficio, solo un sì o un no, Paolo? Sì, non c'è nessun'altra cosa particolare. Benissimo, giù Mediolanum del 2,5%, Saipem del 2,37%, di Luxottica si è detto, giù Unipol dell'1,67%, Tenaris dell'1,66%, Talcementi dell'1,6%, anche oggi c'è qualche banca che va male, il Banco Popolare ancora sulla scorta probabilmente delle notizie dei giorni scorsi, tra l'altro, ve lo ricordiamo, anticipate da Radio 24, il Monte dei Paschi giù dell'1,43%, Bulgari meno 1,08%, giù anche Fiat oggi dell'1,06%. Andrei sui titoli in positivo, a partire da Autogrill, che è il migliore, un più 1,93%. Esattamente, Autogrill ha fatto segnare la migliore prestazione del FTSE MIB, le quotazioni hanno beneficiato degli ultimi dati sull'andamento del traffico aereo, in particolare del traffico passeggeri, che riguarda direttamente Autogrill, che gestisce molti duty free in importanti scali internazionali. Secondo i dati della IATA, la crescita del traffico passeggeri ha accelerato il passo in settembre, salendo del 10,5% su base annua rispetto al più 6,5% di agosto. Bene, per quanto riguarda Unicredit, nelle attese di oggi, perché poi alla fine non abbiamo parlato di come è andato il titolo, non è stato particolarmente mosso, un calo dello 0,32% è perfettamente in linea col mercato. In realtà ancora bene la Lazio. Sì, la Lazio ha confermato domenica di essere la capolista della Serie A italiana e la borsa reagisce alle notizie sportive, un rialzo del 6,9% anche oggi, che porta il titolo Lazio, di recente è stato tra i più volatili, reagendo proprio alle notizie di sport. E poi di solito annunciamo, ricordiamo già da ora, che spesso è stata vittima poi di prese di beneficio dopo gli exploit seguiti ai risultati sportivi. Infine ti chiedo di Edison, che oggi ha diffuso i dati. Sì, Edison ha diffuso i dati che sono stati accolti con cautela dal mercato, che ha venduto le azioni Edison, che hanno perso il 3,5%, a pesare in particolare è stata la revisione al ribasso delle stime sul margine operativo lordo previsto a fine anno. Oggi Edison si prevede un molle in lieve calo rispetto al 2009, mentre l'indicazione precedente era per una stabilità rispetto all'esercizio precedente. E l'ultimo che ti chiedo per davvero è Premafin, perché oggi è arrivata la notizia che Bolloré è salito al 5% del capitale. Effetti? Sì, esattamente, effetti sono quelli che erano prevedibili. Il titolo Premafin ha accelerato il passo proprio dopo l'annuncio che Bolloré ha di fatto raddoppiato la propria quota salendo al 5%. Premafin ha guadagnato il 2,3% e la speculazione su possibili ulteriori cambi nell'azionariato anche della partecipata Fondiaria Sai ha spinto all'avviazzo anche la stessa Fonsai a più 0,56% in controtendenza rispetto a un settore assicurativo europeo che complessivamente è stato in calo. Grazie dunque anche per oggi ai colleghi di Radio Cuore il Sole 24 Ore, grazie a Paolo Paronetto, buonasera. Grazie a voi e buonasera. Brevissimamente, bene anche Finmeccanica su dell'1,5%, Snam Rete Gas dell'1,37%, dell'1%, Telecom Italia, Mediobanca dello 0,8%, la Popolare di Milano di 0,5% e Fondiaria Sai di 0,5%, così come Terna e UbiBanca, Parmalat su dello 0,41%, Campari dello 0,22%, Intesa San Paolo dello 0,19%, Exor dello 0,11% e Enel dello 0,06%, Mediaset in perfetto pareggio. E cambiamo argomento, parliamo di energia in questo caso, perché oggi c'è stato un intervento del sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Sagli a margine di un seminario promosso dalla Diconsum sul tema dell'efficienza energetica. Si parla dell'incentivo del 55% per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Sentiamo dunque, un tema quindi che interessa molti, sentiamo dunque Sagli al microfono di Alessandra Capozzi dell'agenzia di stampa Radio Corp. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per dare un futuro ad una misura che rappresenta un driver importante per lo sviluppo e per la crescita. È chiaro che è una misura che produce a regime non un esborso da parte dell'erario dello Stato, ma un saldo quantomeno in pari, perché ovviamente si genera un'uscita dall'evasione fiscale di molte attività e un incremento dell'IVA e di altre componenti, e quindi io spero che riusciremo a, nonostante le difficoltà di bilancio nelle quali il governo si dibatte, si possa prorogare questa misura, magari anche con delle, diciamo, regole più selettive. Vedremo che succederà su questo fronte. Tra l'altro vi abbiamo anche riferito del lavoro che sta facendo il governo per varare, almeno secondo le indiscrezioni di oggi, appunto delle nuove misure economiche insieme al decreto mille proroghe. E ci ritroviamo subito dopo il giornale radio, parleremo appunto, come si diceva all'inizio, del rapporto che è uscito oggi sull'economia della musica, e poi toccheremo il tema immigrazione. Le 18, 10 minuti e 25 secondi in una giornata di mercato che ha visto le borse in lieve calo, con il FTSE MIB che è sceso dello 0,33% e il FTSE All Share altrettanto in Europa, Europa complessivamente negativa. L'America in questo momento sta facendo segnare un sostanziale pareggio, il Dow Jones cede lo 0,01% e l'euro è scambiato contro dollaro a 1,38,73. Continuano nel frattempo a uscire uscire notizie dal post consiglio d'amministrazione di Unicredit, il governatore della banca centrale libica Farhat Bengdara ha detto: non compreremo più azioni di Unicredit. Adesso noi cambiamo decisamente argomento e veniamo a parlare, come annunciato, di industria musicale, che cambia ma a quanto pare riesce a restare a galla. Lo dice il rapporto 2010 Economia della Musica in Italia, realizzato dallo IULM, dall'Università IULM, e presentato oggi a Milano. Marta Cagnola. L'industria musicale tiene. In un momento difficile, contando un PIL in calo del 5,1% e una diminuzione dei consumi dell'1,2%, il fatturato complessivo del settore musicale è in calo del 9% e si tiene a galla grazie al digitale, comparto che registra la crescita maggiore del 2009, più 13%. Il calo più pesante invece è quello dell'elettronica di consumo audio, meno 25%, il crollo del supporto fisico, dischi e CD. Il coordinatore del rapporto 2010 Economia della musica in Italia, professore associato di economia all'Università IULM, Luca Barbarito. Diciamo che allineato alla contrazione del PIL, meno 6%, noi abbiamo stimato il cosiddetto piccolo settore, contro un meno 5% del PIL nel 2009, però in realtà sta vivendo delle trasformazioni profondissime al suo interno. Quindi con dei comparti che crollano del 25% e altri che sono in crescita. E credo che questo settore costituisca un esempio di trasformazione di una filiera, di un bene informazione, in questo caso la musica, e ne seguiranno l'editoria, i libri, eccetera. Io credo che tra 5 anni le case discografiche non avranno più la parola disco nella loro ragione sociale e il fatturato della musica verrà da tutt'altro che non i dischi. I dischi saranno probabilmente sotto il 10% o il 5% del fatturato dell'industria musicale. L'altro comparto a segno positivo della filiera è la raccolta dei diritti SIAE e SCF per la musica in attività commerciali e pubblici esercizi, in aumento del 9%. Il presidente di SCF Consorzio Fonografici, Saverio Lupica. La raccolta dei diritti è quella che potrà consentire probabilmente in futuro alle società discografiche di continuare nella loro attività. Il futuro è i diritti e la vendita del digitale. Spesso bisogna farlo capire che i diritti in realtà sono diversi tra quelli raccolti da SIAE e quelli raccolti da SCF. La SIAE raccoglie i diritti dovuti agli autori e agli editori, SCF raccoglie i diritti spettanti agli artisti e alle casse discografiche. Sono diritti diversi, sono anche utilizzazioni diverse, perché ovviamente i diritti ad SCF sono dovuti nel momento in cui vengono utilizzate delle registrazioni. Sulla crescita comunque l'ombra della pirateria. A parlare ai ragazzi della IULM anche la discografica Mara Maionchi. Ma la musica deve essere venduta e comprata solo perché ha delle persone che lavorano in questo campo. Io, i giovani non si rendono conto, ma se avessero visto l'uscita dalle case discografiche le persone di 40 anni con 2 figli che andavano a casa, cambierebbero idea. Direi che trovando delle giuste strade, che sono i prezzi, i costi, io credo che va pagato quello che merita. D'altronde uno 0,90 in internet di un pezzo e un 9,90 per un album mi sembra che non sia una follia. Se vuole ascoltarla rinuncia a qualcosa e prende quella, come si faceva nei tempi degli anni 70. Sono le 18:14:45. A chi già ci scrive, ci dica, e ce l'ha scritto all'inizio trasmissione, ci dica la Caritas quanto ci costano gli immigrati di spese legali, di indagini di polizia, del costo che lo Stato sostiene quando sono in carcere. A chi ci scrive, ma quale risorsa economica sono? Nel mio negozio non comprano niente. Cercheremo di rispondere tra poco, parlando appunto del rapporto Caritas Migrantes, naturalmente dal lato economico. Le 18:17:12. A chi ci chiede, non ho capito la notizia su UCG, supponiamo che si riferisca ad Unicredit Group, e se possiamo ripeterla, che cosa è successo? Se è successo semplicemente che è finito il consiglio di amministrazione, è uscito il governatore della banca centrale libica e ha detto non saliremo ulteriormente nell'azionariato di Unicredit, ed è tornato a negare i legami con la LIA, la Libyan Investment Authority. A chi invece ci chiede, perdonate se non lo abbiamo abbiamo detto, che mestiere fa il ragazzo del quale abbiamo parlato poco fa, che è andato in Australia e guadagna tanto, fa il programmatore. Veniamo al prossimo tema, appunto l'immigrazione. E già i vostri messaggi sono iniziati a piovere ad inizio trasmissione. Allora, in 20 anni gli immigrati regolari in Italia sono aumentati di 10 volte, erano 500.000 nel 90, sfiorano i 5 milioni nel 2010 e rappresentano l'11% del prodotto interno lordo. Sono circa il 10% degli occupati e titolari del 3,5% delle imprese. Saluto Maurizio Ferrera, docente di scienze politiche, se non andiamo errati, all'Università di Milano ed editorialista del Corriere della Sera. Buonasera professore. Buonasera a voi. Allora, a questo punto possiamo dirlo abbastanza tranquillamente, sappiamo che faremo arrabbiare qualcuno perché, come si diceva già prima, è arrivato già qualche SMS abbastanza cattivo, però alla fin fine il ragionamento è una realtà con la quale fare i conti. Indubbiamente però, e con questo forse possiamo riassumere le obiezioni che arrivano dagli ascoltatori, c'è un costo sociale che è relativamente forte, professore. Ma io partirei però dalle considerazioni economiche, cioè noi abbiamo i numeri che lei ha menzionato poc'anzi, cioè alcuni milioni di immigrati, i quali vengono nel nostro paese, si insediano in Italia e si mettono a lavorare. La maggior parte di loro partecipano al mercato del lavoro cosiddetto regolare e quindi pagano i contributi, pagano le imposte, quando consumano pagano le imposte indirette e hanno anche la caratteristica di essere relativamente giovani, quindi diciamo che pagano di più in termini di tasse e di contributi di quanto non ricevono sotto forma di servizi. Per la sanità, per la scuola, per i servizi sì, sociali. Sì, tra l'altro proprio su questo la interrompo, professore, perché uno dei dati forse più interessanti forniti dal rapporto della Caritas è proprio il fatto che il bilancio INPS, questo è quello che sostiene Caritas, è risultato costantemente inattivo negli anni 2000 anche grazie ai contributi degli immigrati, proprio per i motivi che diceva lei. Insomma, sono giovani, pagano i contributi all'INPS fondamentalmente, ma di fatto non ne ricevono perché, essendo giovani, semplicemente non sono ancora andati in pensione. Esattamente, ora c'è circa un pensionato ogni 30 immigrati, mentre fra gli italiani ce n'è uno ogni 4, per cui c'è, grazie appunto alle loro caratteristiche anagrafiche, cioè il fatto che sono giovani, pagano i contributi, ma pochi di loro raggiungono i requisiti per ottenere la pensione, e siccome l'INPS ha attualmente uno squilibrio molto forte tra entrate contributive e spese per le prestazioni, in quanto invece la struttura demografica complessiva dell'Italia è molto squilibrata, ci sono tanti anziani e pochi giovani, e quindi questo è un contributo molto importante, che peraltro resterà importante per alcune decine di anni, perché è chiaro che stando qui anche gli immigrati invecchieranno, ma ci vorranno 30-40 anni prima che la struttura demografica all'interno della popolazione immigrata si armonizzi con quella degli italiani, e quindi fra 30-40 anni cominceremo ad avere un problema anche con la popolazione immigrata per quanto riguarda le pensioni. Tuttavia è un problema di cui è meglio occuparci fra 30 o 40 anni, perché il problema pressante oggi è che non abbiamo i soldi per pagare chi va in pensione oggi. Il sistema italiano funziona infatti con la ripartizione, cioè si prendono i contributi da chi è occupato e li si spendono immediatamente per pagare le pensioni di chi si è ritirato dal lavoro. Quindi noi abbiamo oggi uno squilibrio molto marcato nel bilancio dell'INPS, e abbiamo bisogno oggi di incrementi dei contributi in modo da bilanciare le uscite dell'INPS, e gli immigrati sotto questo profilo svolgono esattamente questo ruolo. Ok, allora cerchiamo di parlare di cose serie e anche, e consentitecelo, di fare domande serie tra battute tipo mai saputo che gli spacciatori pagassero le tasse, oppure chi se ne importa l'impatto positivo sull'economia degli stranieri al cittadino interessa se un marocchino lo deruba. Ecco, leggo un paio dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Allora, alla domanda si può anche rispondere. Gli interessa perché, diciamo, se l'INPS finisce in rosso, oggettivamente al cittadino interessa. C'è un altro tema che però mi interessava affrontare, visto che stiamo parlando di una trasmissione, visto la trasmissione economica, diciamo così, e non è una trasmissione politica, e quindi non, come dire, non sono questi gli argomenti. Mi interessava capire anche le uscite verso l'estero, perché molti degli immigrati che vengono qua fanno parecchie rimesse alle famiglie d'origine, e qua veniamo al problema posto forse un po' brutalmente dall'ascoltatore che ci ha scritto all'inizio e diceva: vengono alla fine il mio negozio di immigrati, praticamente non ne ho visti mai, insomma, salvo naturalmente per i beni di consumo che ci servono quotidianamente, gli alimentari, tanto per fare un esempio. C'è un problema di non reimmissione in Italia di quote di stipendio? No, un pochino sì, innanzitutto perché questi guadagnano, tendono a guadagnare poco. Teniamo presente che la gran parte degli immigrati occupati svolgono lavori poco qualificati, quei lavori che peraltro gli italiani non vogliono più fare. Pensiamo ai servizi personali, alle famiglie, alle badanti, le collaboratrici domestiche, o pensiamo all'agricoltura. Quindi è chiaro che guadagnando poco, consumano poco. Inoltre è vero quello che dice l'ascoltatore, cioè in parte ciò che loro guadagnano viene rispedito a casa per mantenere i familiari che sono rimasti là. Ma diciamo, non guardiamo a questo fenomeno con uno sguardo, diciamo, miope. Cioè, il fatto che loro mandino a casa i soldi significa A, che contengono la possibile pressione migratoria di tanta povera gente che da quei paesi potrebbe, come peraltro ancora succede, proprio oggi sono sbarcato a Catania un barcone pieno di immigrati clandestini, quindi le rimesse sono un modo per contenere la pressione immigratoria e contribuire a diciamo, elevare il tenore di vita, almeno al di sopra di soglie di sussistenza, nei paesi di origine, possibilmente sviluppando anche qualche diciamo, meccanismo di crescita in quei paesi, perché il problema è proprio questo: loro emigrano perché i loro paesi non forniscono occasioni, non forniscono opportunità. Quindi io vedrei anche questi aspetti. Professore, molto brevemente, ho un altro paio di domande dagli ascoltatori. Mauro che ci scrive: se sono 5 milioni e pesano circa il 10% quindi della popolazione, no, più non o meno della popolazione, della forza lavoro. Della forza lavoro. Come fanno a produrre l'11% del prodotto interno lordo, considerando che spesso non compiono lavori non molto retribuiti? La domanda mi sembra fondata. Ma è vero che svolgono lavori poco retribuiti, cioè con un basso salario per loro, ma non necessariamente in settori poco rilevanti per l'economia italiana. Non è che ciascuno di noi produce una percentuale, diciamo, proporzionale del PIL, dipende dal settore in cui ciascuno lavoriamo. Bisognerebbe, per rispondere in maniera approfondita a questa domanda, guardare esattamente quali sono i settori in cui c'è una maggiore concentrazione di immigrati. Poi non tutti comunque fanno lavoro, il 3% di loro sono piccoli imprenditori. Ultima domanda, sempre ci arriva da un ascoltatore: c'è anche un peso che come dire, figli e parenti degli immigrati hanno sul nostro welfare, e forse questo non viene attentamente calcolato. No, è calcolato nelle stime di Caritas, perché sono calcolate le spese per l'istruzione, che quindi vanno a vantaggio dei figli degli immigrati, sono calcolate le spese per prestazioni familiari, per la sanità, che vanno ai figli e vanno ai parenti, quindi diciamo sono calcoli onnicomprensivi, non sono calcoli che si riferiscono solo agli immigrati che lavorano, ma all'insieme delle famiglie degli immigrati. Tra l'altro Insieme ai dati della Caritas oggi sono usciti altri dati, ne parlavano alcuni quotidiani, che segnalano come molti dei figli degli immigrati ormai si integrino perfettamente nel sistema educativo italiano, stanno cominciando ad arrivare anche nei licei. L'economia italiana ha bisogno di ricambio generazionale di capitale umano giovane, e quindi se la seconda generazione degli immigrati riesce a integrarsi e a contribuire attraverso talento e capitale umano al rinnovo della nostra occupazione, del nostro mercato del lavoro, è una cosa di cui non possiamo che essere contenti. Grazie. Questi sono i problemi sociali a cui faceva naturalmente si faceva riferimento. Io la devo forse un'altra trasmissione. Io la devo ringraziare. Intanto ringrazio Maurizio Ferrera, che è docente all'Università di Milano, editorialista del Corriere della Sera, e chiedo scusa a Giuseppe Cruciani per il lieve ritardo. Quali sono Siamo i temi qui. Di oggi? Sempre il solito teatrino della politica, intorno alle frasi di Marchionne. Cercheremo di capire anche perché Marchionne sceglie il programma di Fazio per rilasciare quell'intervista di cui si discute, poi ancora le ripercussioni del discorso di ieri di Fini a Milano e altre cose ancora, la questione gay Buttiglione. Grazie Giuseppe. Dunque, a tra poco. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.